che ho peccato. Anch'io, come Melissa P, nascondo dei torpidi segreti. Io, Assunta P, 100 colpi di telefono prima di trovare un'occupazione. Tutto è cominciato quando sono entrata nel mercato del lavoro. Prima, intendo dire fino a 20 anni fa, esisteva soltanto il lavoro. Tutto al più potevi definire la tua condizione occupazionale sulla base della dicotomia occupato-disoccupato. Tutto così banale, così piatto, che noia! E poi invece è arrivato il lavoro atipico. Già l'espressione suscita un senso di trasgressione della regola. Anche a te non trovi? Insomma, questa è la storia di come sono diventata una pervertita e perversa precaria. Una che ama piegarsi alla flessibilità. Thank you. di gloria! D'altronde, che cos'altro potevo aspettarmi con un nome così? Lo dicevano i latini, che nomen omen, il destino è nel nome. Lo diceva Dante nella Divina Commedia, che nomina sunt consequentia reum. I nomi sono conseguenza delle cose. E lo ha detto anche il presidente di commissione, quando nel proclamarmi dottoressa in editoria e giornalismo cum laude, esclamò: signorina buona volontà. Chiaramente destinata al successo, perché si sa, il merito e l'impegno pagano sempre. Vabbè, d'altronde, chi si preoccuperebbe? Con un curriculum come il mio? Nome: assunta buona volontà. Età: 25 anni. Credi nell'amore eterno? No. Scusate, mi sa che con il curriculum vitae non funziona così. Dunque, ricominciamo. Istruzione e formazione. Prima della classe ad elementari e medie inferiori. Diploma di maturità scientifica, 100 centesimi. Laurea di primo livello in scienze e tecnologie della comunicazione, 110 su 110. Laurea magistralis cum laude in editoria e giornalismo. Esperienza di studio all'estero. Diploma di recitazione presso la Libera Accademia dello Spettacolo. Competenze linguistiche. Parlo fluentemente spagnolo, inglese, francese, mastico l'albanese. Rudimenti di arabo. Esperienze lavorative? Dunque, aspetta. Una decina di stage. Qualche occasione di lavoro nel no profit. Qualche esperienza di lavoro nero. No. Nessuna esperienza di lavoro legalmente riconosciuto. In quanto alle cose che so fare, però, non mi batte proprio nessuno. Capacità e competenze tecniche, ottime. Capacità e competenze organizzative. E a scuola ero sempre referente nei lavori di gruppo. E poi c'è stato l'educatrice all'oratorio, il volontariato, lo scautismo, la mensa dei poveri. Insomma, capacità e competenze tecniche, organizzative e relazionali, molto, molto sviluppate. Patente B, ai sensi della legge 675-96 sulla tutela del trattamento di vietati personali, autorizzo il trattamento di vietati personali. Insomma, non devo preoccuparmi proprio di niente. Non ho nulla da temere per il mio radioso futuro. Ma allora, cos'è questa strana sensazione che si insinua tra le pieghe del mio stomaco e che pungola l'orecchio fin dal giorno della mia laurea? Sarà forse che proprio quel giorno, appena proclamata dottoressa, tra l'orgoglio dei miei papà, gli abbracci degli amici, oh, i cori, i confetti rossi, lo spumante e l'allegria della festa, nel momento culminante della foto di gruppo, io non sorrido più, perché il mio sguardo cade all'improvviso e malauguratamente su un pezzo delle mura che circondano il cortile della facoltà. E lì, proprio vicino a mio fratello che sta per scattare la foto, io leggo una scritta che non ho più dimenticato. La laurea, come il matrimonio, è il giorno più felice della nostra vita. Proprio per questo, il giorno dopo, la vita comincia a peggiorare. Yeah. svegliata nel cuore della notte. Il ticchettio dell'orologio della cucina ha interrotto il mio sonno. È strano. Di solito neanche le cannonate riuscirebbero a svegliarmi. Lo dice sempre mia madre. Arrasso sia con un terremoto! Ha risvegliata d'assunta! Le lancette dell'orologio della cucina continuano a sbattere forte contro i secondi. E ora si incrociano con quelle dell'orologio del corridoio. Ci avete mai pensato quanto un rumore tanto sottile possa risultare perforante quanto il cuore continuo a dormire? Ah sì. I miei mi volevano dottoressa. E io invece voglio fare l'artista. Sì, giacca! Giacca che mi dà un tono! Dovevo fare. Is in cerca di occupazione. Ciao, come va? Assunta e Mariolino 78 hanno stretto amicizia. Ciao, Fragolina 85, ho visto la tua foto e sei molto carina. Non posso dire lo stesso di te, Gigino 81. Forse però così è troppo violento. Tu invece, Manolo 79, non sei niente male. Ma ciao! Assunta ha appena scartato un biscotto della fortuna. Sfortunata in amore. Fortunata nel lavoro. Cosa? Vabbè. Mi sono arrivate delle mail. Dunque, vediamo. Nuova offerta di lavoro su www.chinonlavoranonfalamore.it. Allora, vediamo. Ecco, cercasi neolaureati da inserire nell'area marketing dell'azienda X specializzata in Y. Oh, interessantissimo! Ma li devo chiamare subito! Vediamo i calzini per il tuo uomo e i suoi piedini! Con gli occhi comincia a rilassarsi, faccio un respiro profondo e si lascia andare lentamente. Immagino una luce diffusa che la circonda. Ora inizierò a contare e quando avrò terminato, lei inizierà a raccontarmi il suo sogno ricorrente. 5, 4, 3... 2, 1, 0. Sogno spesso di essere piccola. Nel sogno ci siamo io e mio fratello, con lo stesso pigiama con i cani. Ce lo sta mettendo mia madre, mentre guardiamo un film della Disney alla TV. Nel film c'è una ragazza al suo primo giorno di lavoro. Un tizio in giacca e cravatta le sta facendo fare il giro. A un tratto arrivano davanti a questa grande porta e lui le dice di stare attenta, che lì dentro c'è la terribile donna calamaro. All'improvviso si trova in questa stanza con quest'essere mezza donna e mezza calamaro che afferra le persone ma piccole come gli egiziani che non hanno fatto bene il loro lavoro e le mangia schiacciando. Io mi giro terrorizzata. Oh mio Dio! La donna calamaro è mia madre! Secondo la teoria dell'epistemologia sistemica della motivazione empatica elaborata dalla psicologia psicanalitica del sé, dovremmo andare a ricercare le motivazioni del sogno nel rapporto con suo padre. Scusi, ma veramente io sogno sempre mia madre? Assunta, per cortesia, resti concentrata e mi lasci lavorare. Dunque, mi parli della sua infanzia. Scusi, dottor Pagliacci, ma veramente io più che della mia infanzia vorrei parlarle del mio presente. Il fatto è che comincio a stancarmi di training in bassa psicologia del tipo: e chi è il migliore? Assunta, per cortesia, resti rilassata. Le offerte di lavoro ce ne sono anche tante, per carità. Il problema è che si tratta di stage. Ha presente quell'esperienza sul campo che bisogna fare per laurearsi? Io li ho fatti a bizzeffe. Saranno sufficienti, ho pensato. E invece ho finalmente capito il senso di quella frase che dice: di imparare non si finisce mai. In questo potrebbe nascondersi a livello del suo subconscio una pulsione sessuale ricondita, come un desiderio di sottomissione segreto. Capisce cosa intendo? Quando li incontri di persona è anche peggio. Tutto è un continuo sottolineare quanto sei fortunata se ti prendono e che fortuna lavorare con noi. E se per caso tu li guardi un po' stupita, loro ti parlano come se venissi da un altro pianeta. Signorina, i rapporti di lavoro sono come le partite di poker. C'è chi apre e c'è chi rilancia. Che cosa fa? Vede? Ma io dico, la partita di poker la fate con la mia vita! Assunta, per cortesia, resti rilassata. Che poi lo chiamano rimborso spese di 400 euro. 350 euro di affitto, a tre teste. 50 euro di spese mensili, 30 euro più o meno per i mezzi, 10 euro per mangiare al giorno, 305 più 5 più 3 più 10, fa 440, 400, meno 440, ci ho perso 40 euro. Assunta, per cortesia, resti rilassata. Io volevo fare l'attrice. Perché? Ma sapete chi si è trovata meglio di tutte? Quella che è diventata modella. Eh già, perché oggi fare la modella è un prerequisito. Io ho studiato anni per fare l'attrice. Soldi buttati. Anche perché io, prima di beccare un lavoro, mi sparo almeno 100 provini. Dunque, per Giulietta non andavo bene, perché siccome nell'età dello sviluppo c'ha le tette grosse. Antigone non va, perché siccome la seppelliscono viva, mi si doveva vedere almeno la testa. E Pinocchio avevo provato per la volpe, ma m'ero depilata e avevo perso il pelo. Per la monaca di Monza mi mancava il vizio. Poi ho saputo che stavano facendo i provini per Heidi. E allora mi sono detta, lì ho il fishing di Europa. E invece hanno preso una miss come protagonista. Io però ho superato il provino come capretta. Facevo ciao! No! La verità è che io sono fuori dal giro. Dal giro vita. E così ho deciso. Anche io voglio fare la modella. Che se poi decidi di fare la modella, hai svoltato. Quando sei nel fiore, presenti Sanremo, sfili in passerella, ti spari un bel Natale in Azerbaigian con De Sica o un film d'autore con Buccina. Magari ci scappa pure un leone o una balba. Perché non sai fare un cazzo, ma lo fai con grande charme. Oh, se per caso vieni scartata a Miss Italia, non disperare! Ti si aprono comunque moltissime possibilità nel mondo dello spettacolo. La velina, la schedina, la letterina, la sgualdrina, la cretina, l'olgettina. Tottorinina, come vagina. Avanti un altro! Il maestro chiede se sa ballare. Sì. Bene, faccia un uomo che si muove come una pantera. Ma non aveva detto ballare? No, non ci siamo capiti! Mi dinamizzi un uomo pantera nello spazio! Primo tentativo non molto riuscito, direi. Ma posso fare meglio! La mia povera testa! Il maestro dice di fare una foglia che cade da un albero, volteggia, dentro la sospinge e poi si posa sul bordo del marciapiede! Ma cos'è? Un provino per una natura morta? Avanti, signorina, tentiamo un'ultima strada. Il maestro dice di fare il colore rosso. Come, prego? Ha capito, il rosso, il colore rosso, avanti, ce lo faccia! Scusi, abbia pazienza, ma veramente io uno suo corpo come interpretare l'imboto. Yeah. Adesso sto preparando i provini per una fiction. Madre coraggio. Il coraggio di una madre. La storia vera è quella di una madre che lavora sodo e ipoteca la casa per pagare alla figlia degli interventi di chirurgia plastica, per partecipare alle selezioni di Miss Maglietta Bagnata. Una tragedia finisce sul lastrico, si rovina, ma poi ha un lieto fine, perché incontra Fabrizio Frizzi, che le propone di partecipare alle selezioni di Miss Italia, e lei vince. Una cagata pazzesca! Ma dov'è la cattolica del maestro? Ma dov'è quella idiota di una nulla buona volontà? Come diavolo si chiama? Tagliatele la testa! Lasciatevi in calore. ma la flessibilità è un fortissimo vantaggio. Non vi annoierete mai come un impiegato con il posto fisso. Infine, per i giovani laureati in cerca di lavoro, per voi in arrivo una pioggia di stage con rimborso spese da concordare. Chiacchiere, qualche giro. Volevo proprio andare a quel concerto stasera e ho anche mandato un po' di messaggi sparsi in giro per vedere se... Oh, ma com'è che certe sere hanno proprio tutti di meglio da fare? Ah, a proposito, nessuna chiamata pervenuta. E poi quando rientro mi viene una voglia matta di parlare. Non posso, perché Lalla ha la porta chiusa. Ma io vorrei proprio fare quattro chiacchiere. Poi il telefono squilla. Sono i miei. Cosa fai? Come stai? Dove sei? Li liquido subito. Ma perché? Eppure io avrei proprio voglia di fare quattro chiacchiere. Anzi, vorrei che qualcuno mi abbracciasse. Vorrei proprio due braccia. Vorrei due braccia. Staggio! Sì, signora, capito bene! Uno, due, cinque! noi ragazzi di oggi siamo così. Ci piacciono le esperienze estreme, al limite della decenza e della legalità. Ma quali rapporti protetti? A noi, gli ammortizzatori sociali, ci fanno venire l'orticale. Inail, INPS, Previdenza. A noi la sicurezza non piace. Preferiamo fare il bungee jumping dalle impalcature. E poi soprattutto andiamo matti per il lavoro nero, perché ci piace farlo al buio. Vanno ancora, cioè senza contributi e sottopagati, perché siamo anche maledettamente sadomaso. Occasionale.